storia della donna che sognò il computer, che già credo possa lasciare intuire qualcosa. Chi era questa donna? Questa donna, che si chiamava appunto Ada Byron Lovelace, era la figlia del famoso poeta Lord Byron, di cui credo molti hanno sentito parlare, che nella prima metà dell'Ottocento ha praticamente scoperto, inventato più che scoperto il software e ha codificato il primo linguaggio di programmazione, anticipando e immaginando in modo profetico quella che sarebbe stata l'era tecnologica, l'era digitale. Allora, vorrei premettere che nel tempo in cui Ada Byron ha queste visioni, attraverso la matematica naturalmente, non era in uso nemmeno la corrente elettrica. Si cominciava a usare il treno, si cominciava a usare il telegrafo e Faraday stava facendo le ricerche, appunto, le prime ricerche sui campi magnetici, da cui poi usciranno le teorie e la cui applicazione permetterà l'uso della corrente elettrica. Dico questo per sottolineare la straordinarietà di questa visione, di questa donna che, come racconta lo spettacolo, poiché nello spettacolo non è che si parli specificamente o solamente di matematica, ma è appunto questa donna che poi è morta a soli 36 anni, pur avendo fatto tre figli, sposata, tutte queste cose alle quali una donna della sua epoca non poteva certamente sfuggire. Allora, ha avuto una vita veramente da romanzo, un'infanzia vissuta certamente nella ricchezza, ma diciamo priva del calore materno, aveva una madre molto così, una generalessa che però l'ha obbligata a questi studi matematici attraverso i quali lei però ha subito mostrato di essere un genio e lei attraverso i numeri vedeva altre cose, lei attraverso i numeri ha visto il futuro, lei appunto in quell'epoca ha visto quello che stiamo facendo noi oggi con i computer, lei sapeva già che sarebbe accaduto quello che per noi oggi è un po' la norma. Quindi lei che ha vissuto questa vita breve, intensissima, appunto 36 anni, ripeto, ha avuto amori, amanti, debiti di gioco, scommetteva alle corse ai cavalli, come si sa, gli inglesi amano fare, dilapidando buona parte del suo ricco patrimonio. E quindi ecco, questa donna così apparentemente fragile, ma di una forza intellettuale straordinaria, di una forza anche come donna che sa trovare un'autonomia, perché vorrei ricordare che all'epoca per una donna, anche una donna dell'alta aristocrazia come lei, e anche riconosciuta dalla scienza, per avere in prestito un libro dalla biblioteca della Science Society aveva bisogno del permesso scritto del marito. Ecco. Quindi dico queste cose a contrasto l'una con l'altra per farvi capire, dato che ho poco tempo, ecco, tutto quello che sta in mezzo tra questi opposti e questo contrasto è la straordinarietà di questa storia, in cui credo che la forza più propulsiva sia proprio quella della grande passione, la passione intellettuale, la passione di voler costruire il proprio sogno della vita e la passione che produce il coraggio di andare sempre oltre e raggiungere quella visione, metterla in pratica e farla vedere anche agli altri. E così sappiate che l'esercito degli Stati Uniti, quindi della nazione più importante del mondo, ha dedicato ad Ada, e si chiama Ada, che in inglese ovviamente si dice Ada, si chiama Ada, il più importante programma informatico di difesa degli Stati Uniti. Quindi lei è riconosciuta. Ogni anno al mese di ottobre si celebra in tutto il mondo un Ada's Day, quindi in tutto il mondo c'è un raccordo di università e istituti di ricerca che ricordano lei. In autunno uscirà la mia biografia per l'editore Oepli. Il testo teatrale invece è già stato pubblicato dalle edizioni dell'Università La Sapienza ed è in vendita anche online. Lo spettacolo è interpretato da una meravigliosa attrice, una delle nostre migliori attrici, che è Galatea Ranzi, accanto alla quale c'è un ottimo, un bravissimo attore, quale Gianluigi Fogazzi, che interpreta Charles Babbage, che è stato appunto questo grande matematico che con ADA appunto ha progettato il progenitore del computer. Se poi qualcuno è veramente appassionato, potrebbe, dopo aver visto, una volta che capita a Londra, andare al Science Museum, dove c'è un piano tutto dedicato alla storia delle macchine da calcolo e dove potrà vedere ricostruita questa macchina analitica, si chiamava, perché appunto computer calcolatore computer è un termine che verrà poi applicato nel Novecento da Alan Turing e da quelli che poi Sì. proseguiranno, ma a partire anche dalle teorie di Ada Byron e di Charles Babbage. Valeria, nella messa in scena rispetto a una scienza come la matematica, hai puntato più sull'aspetto umano? Sì, certo. Cioè non parlano mai di numeri, veramente, parlano. Allora, l'aspetto umano è fondamentale, anche perché lo spettacolo si svolge in una notte di insonnia, quando lei, diciamo, è un anno prima di morire, diciamo, una notte di insonnia in cui lei scende nel suo studio e viene presa così viene avvolta dal nastro dei ricordi. Per cui lei racconta, ma in modo febbrile, in modo appassionato, in modo anche molto poetico, ora forte, ora intenso e ora anche molto tenero, toccante, anche commovente qua e là, in cui appunto la memoria va avanti e indietro e ricostruisce tutta questa sua vita straordinaria. Poi a un certo punto, mentre lei ricorda tutto questo con tale fervore, perché era una donna veramente, io ho studiato tutti i suoi diari, le sue lettere, i suoi appunti, che aveva una potenza di immaginazione nella mente straordinaria. E quindi attraverso appunto questa rievocazione così appassionata, così vivida, in cui lei ricorda Charles Babbage come la persona che è stata più importante per lei nella sua vita, proprio perché con lui ha vissuto questi anni straordinari di vita intellettuale, ha fatto questo progetto, di cui poi, vi dirò magari successivamente, sono stati anche invitati dal Re d'Italia Carlo Alberto a Torino a parlarne, e da questo poi Ada Byron appunto tradurrà in inglese un libretto che era stato scritto dal conte Menabrea della corte Sabauda e che poi lei tradurrà in inglese e le darà appunto una fama internazionale. E quindi solo quando lei appunto ricorda così vividamente questo periodo, allora questo Charles Babbage appare in carne ed ossa, perché insomma, in teatro tutti i miracoli sono possibili, e quindi noi riviviamo in questo secondo quadro quel momento della loro vita in cui appunto parlano del progetto di questa macchina. Ma non parlano di numeri, non parlano di calcoli, parlano di idee che sono i concetti che sono accessibili a tutti e che sono esposti in maniera così, tra di loro parlano in modo appassionato come se parlassero dell'ultima partita Roma-Lazio, no? Poi lei torna, poi questa visione scompare e lei torna di nuovo ad essere in questa condizione, appunto in questa sua notte solitaria e insonne, e appunto rievoca ancora andando avanti e indietro con la memoria gli altri momenti della vita, appunto la nascita di questi tre figli amati ma non propriamente voluti, questa continua lotta con questa madre molto dispotica che cerca di controllare la sua vita e di programmarle ogni cosa, e lei si ribelle in continuazione, questo marito che insomma non era, era una brava persona, un aristocratico, ma però non era proprio il marito che si sarebbe voluto per lui, e lei appunto, e poi l'amicizia bellissima, scusate, con questa scienziata che è stata una delle scienziate più importanti di quell'epoca, che aveva appunto scritto dei libri molto importanti e che era stata accettata, pur essendo una donna, dalla società scientifica inglese. E poi lei ricorda i suoi giochi d'infanzia, ricorda la nonna, ricorda il suo gatto, e tutto questo in una messa in scena particolare, delicata, dove attraverso il video emergono queste immagini molto affascinanti che aiutano anche a avere delle suggestioni così visive, e una musica molto particolare e secondo me molto bella, composta, musica originale composta dal maestro Francesco Rampichini. Tutto questo al Teatro Vittoria. Poi, che altro dire dello spettacolo? Posso dire che lo spettacolo è assolutamente da vedere, che quelli che conoscono questa storia non riescono a capire com'è che non la conoscessero prima. È una storia che resta impressa. Se poi volete sapere qualcosa anche in più del personaggio, chi avesse anche delle curiosità anche scientifiche intorno ai temi della tecnologia, il giorno 16, cioè la replica che è successiva al debutto, alle ore 19, sempre al Teatro Vittorio, ci sarà una tavola rotonda intitolata Donne, Uomini e Robot, dove appunto delle importanti ricercatrici in questo settore parleranno appunto di questo, perché è ovvio che l'intelligenza artificiale, tutto quello che noi oggi usiamo in digitale e poi la robotica, che ormai è parte, è nel nostro presente, è chiaro che è stato possibile costruirla proprio a procedere dai pensieri anche di Ada Byron Lovelace e di Charles Babbage, e di questo loro avere progettato questo progenitore del computer. In che senso era il progenitore del computer? Progenitore perché fino a quel momento le macchine che venivano costruite avevano come scopo di produrre una cosa, di fare una cosa. La genialità di Ada è stata quella di immaginare una macchina programmabile, cioè che cosa distingue il computer da tutte le altre macchine? Questo, che il computer ha un funzionamento fisso e un funzionamento mobile che è quello programmabile. Ada ha inventato la programmazione e lo spunto è venuto anche dai telai, dai telai meccanici che erano stati meccanizzati in quell'epoca. Tra l'altro dico, l'epoca in cui si svolge questa storia è la prima rivoluzione industriale inglese, Sì. un momento straordinario. E quindi un signore francese di nome Jacquard aveva meccanizzato i telai e aveva applicato questo sistema delle schede perforate per codificare i disegni da tessere sui tessuti, e loro hanno la genialità di applicare questo stesso sistema dove invece di codificare il disegno per il broccato o per qualsiasi altro tessuto, loro praticamente codificavano disegni algebrici che diventavano regole per le macchine attraverso quelle quali la macchina funzionava. E Ada aveva già capito che attraverso questo lei dice: oggi non possiamo, oggi il suo oggi, non possiamo ancora farlo. Ma tra breve sarà possibile trasmettere musica, trasmettere immagini e trasmettere qualsiasi, trasmettere ed elaborare e memorizzare qualsiasi tipo di informazione e soprattutto un infinito numero di informazioni. E ciò è quello che noi facciamo tutti i giorni, oramai. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo La Fata Matematica, storia della donna che sognò il computer, 15 e 16 maggio a Roma al Teatro Vittoria. Un saluto e un ringraziamento a Valeria Patera che lo ha scritto e diretto. Valeria, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, vi aspettiamo. Siamo con Chiara Cavallaro, una delle curatrici della 4 giorni dal titolo Basaglia 1978-2018, 40 anni di resistenza a Roma, all'ex lavanderia, al Santa Maria della Pietà. Chiara, benvenuta. Grazie, grazie a voi di questo spazio. Ce ne parli un po'? Sì, vi parlo raccontandovi che noi tutti gli anni dedichiamo, da quando siamo alla ex lavanderia, in occasione di questo periodo, perché fu il 13 maggio, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, tra 12 e 13, approvata la legge 180 nel 78 e dedichiamo uno spazio non al ricordo, ma alla riproposizione e riflessione sui temi posti da Basaglia. Quest'anno sono 40 anni, abbiamo deciso 4 giornate, una per ogni decennio che è passato ormai. E che cosa vi posso dire? Che abbiamo deciso di affrontarlo un po' da tanti punti di vista, dai punti di vista delle persone che ci stanno continuando a ragionare sopra, e quindi sarà molto interessante domenica 13 la presentazione del libro sull'esperienza campana, e poi invece sabato 19 ci sarà anche questo film, docufilm, diciamo, sugli stati della follia, su gli OPG e la chiusura degli OPG. Io Francesco affronto dal Gordo. punto di vista teatrale, usare le parole di Ada Merini per fare una riflessione teatrale sul tema, e ci saranno anche invece delle persone che, eccola, te lo dico subito, Teresa, scusami, Teresa Capacchione, perdono, perdono, chiedo perdono a Teresa Capacchione tanto, e loro fanno parte, no, Teresa Capacchione presenta il libro, poi c'è Umane Scintille che invece è il gruppo, la serie di spettacoli teatrali che si avvia con questa occasione, che riflette appunto sull'esistenza umana a partire dagli elementi e dalle, e dalle parole che ci sono anche in Ada Merini, e il primo spettacolo sarà I colori maturano la notte. Che altro dirti? No, e dire poi che poi useremo anche un po' di parole. Sabato 19 verranno da noi la presidente della Consulta regionale per la salute mentale, verranno da noi verrà da noi uno del Partito Radicale che si occupa della campagna sul trattamento sanitario contro il trattamento sanitario obbligatorio, e sarà con noi anche Valentina dell'associazione A Buon Diritto, che anche loro hanno seguito la proposta contro il trattamento sanitario obbligatorio che c'è stata e che purtroppo non è decollata perché il Parlamento si è chiuso senza che riuscisse ad andare da nessuna parte. Con loro rifletteremo su quello che si è fatto, quello che non si è fatto, quello che si deve fare se non vogliamo nel salutare i 40 anni della Basaglia poi affossarla. Chiara, raccontiamo anche un po', l'esperienza ex lavanderia per chi non la conoscesse. L'esperienza ex lavanderia fa questa cosa, ogni anno ricorda questo, perché l'ex lavanderia è stato nel Santa Maria della Pietà, che è l'ex ospedale psichiatrico di Roma, lo spazio che venne subito liberato, diciamo così, nel 78, negli anni tra il 78 e il 90, diciamo, per aprirlo alla cittadinanza e per dare modo a chi abitava da anni e anni e anni all'interno del Santa Maria di mostrare all'esterno chi era, cosa faceva e che cosa era in grado di fare. Lo si faceva attraverso cultura, spettacoli, incontri, cominciando da subito a fare quell'apertura che non ha riguardato purtroppo i vari utenti del Santa Maria, perché per uscire dal Santa Maria molti di loro hanno dovuto purtroppo aspettare di morire, ecco, perché lo spazio all'esterno non c'era. Però è vero che il Santa Maria è diventato subito uno spazio aperto. Quando si è ventilata la possibilità che ritornasse a essere uno spazio dedicato prevalentemente alla sanità e non quindi a relazioni sociali e di cultura, un insieme di associazioni all'inizio anche molto numerose e molto importanti, tra cui c'era anche Psichiatria Democratica, c'era anche Italia Nostra, eccetera, decisero di ridare a questo spazio la sua originaria funzione di spazio di cultura e di socialità. Dal 2004 viene mantenuto, non ti dico a prezzo di che cosa, perché siamo al terzo o quarto processo consecutivo, molti restano sempre aperti e ci sono spade di Damocle, qualcuno si è chiuso bene, qualcuno si sta chiudendo male, e quindi mettendo costantemente a rischio non solo l'esperienza, ma la vertenza che nel frattempo è nata per restituire questo spazio ai cittadini. Restituire poi è una brutta parola, perché da quando venne aperto, fin dal suo parco, il territorio ha subito capito, e quindi, come dire, l'osmosi tra territorio ed ex ospedale è stata immediata, e immediatamente si entrava e si usciva, come si dice, ecco. E quindi per evitare che venga tolto qualcosa ai cittadini in più, è anche uno spazio dove fare comunità. Sì. Chiara, Chiara, in chiusura, per saperne di più su questa rassegna, ma anche più in generale sulla vostra attività, ci sono dei riferimenti web? Certo che c'è il sito web www.exlavanderia.it e da lì si accede anche alla pagina Facebook, Twitter, tutto quello che volete, ma l'intera rassegna, gli interi 4 giorni con indicazioni precisissime e anche con il futuro e il passato. Li trovate e troverete presto anche un appello perché, come dire, con l'ultimo processo la situazione non è proprio così tranquilla. L'abbiamo detto molte volte, ma diciamo che questa volta a furia di la goccia scava la pietra e stiamo contando un po' i giorni o le settimane per capire che cosa succederà. Quindi fatevi vedere, sentire e seguiteci, ecco. Allora, ricordiamo l'iniziativa Basaglia 1978-2018, 40 anni di resistenza all'ex lavanderia al Santa Maria della Pietà a Roma, 12, 13 e 18 e 19 maggio. Chiara, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie e un abbraccio, ciao. Siamo con Roberto Scarpetti, autore dello spettacolo Viva l'Italia, Le morti di Fausto e Iaio, che torna in scena a Roma, al Teatro India, dal 15 al 20 maggio. Roberto, ben trovato. Ciao, grazie. Lo raccontiamo? Allora, lo spettacolo è stato ripreso quest'anno perché il 18 marzo di quest'anno è stato il 40° anniversario del duplice omicidio di Fausto e Iaio, che erano due diciottenni milanesi che nel 78, 18 marzo, quindi esattamente 2 giorni dopo il rapimento di Aldo Moro, sono stati uccisi in una strada questo quartiere della periferia nord di Milano, che si chiama Casoretto, e questa strada era esattamente dietro alla sede, la prima sede del Leoncavallo, che era un sabato sera, erano le 8 di sera. Questo duplice omicidio in quel periodo storico dell'Italia, insomma, nel pieno degli anni di piombo, all'inizio dei 2 mesi che hanno tenuto in sospeso la vita politica e sociale del paese con Moro rapito, ha causato delle reazioni molto forti a Milano, una partecipazione popolare molto forte. Infatti già la sera stessa del duplice omicidio si creò una manifestazione spontanea a Via Mancinelli, cioè la via dove sono stati uccisi. Ai funerali, credo una settimana dopo, parteciparono 100.000 persone. I sindacati avevano anche invocato la sospensione dal lavoro proprio per i funerali di Fausto e Iaio. Però, oltre alla commozione, oltre alla violenza di questo fatto, poi ci sono tante altre cose, in qualche maniera misteriose, in qualche maniera mai risolte, perché il caso non è mai arrivato in tribunale, quindi non c'è mai stata una giustizia per la morte di Fausto Iaio. Il caso è stato archiviato nel 2000, le indagini sono state molto lente inizialmente, diciamo non era la priorità capire chi avesse ucciso Fausto Iaio, mentre in Italia succedevano delle cose molto più gravi che in qualche maniera collegavano Roma e Milano. E quindi le indagini furono molto lente, soltanto all'inizio degli anni Ottanta cominciarono a indirizzarsi verso quella che poi è stata la pista più battuta, e il giudice Forleo nel 2000, quando archivia il caso, ricostruisce tutto l'iter dell'indagine facendo i nomi dei 3 sospettati, cioè delle 3 persone su cui le indagini si sono concentrate più o meno dall'82, ma anche dicendo che le prove a carico di questi 3 sospettati non erano sufficienti a portarli in tribunale. I 3 sospettati, visto che lei fa i nomi, quindi io nello spettacolo non li faccio, i nomi non si possono fare perché lo spettacolo racconta dei personaggi reali, no? In qualche maniera, quindi quello che si vede in scena sembra vero. e quindi io non posso dire sono io l'assassino se metto in scena un personaggio, però così parlando invece si può dire che sono i tre sospettati, e i tre sospettati sono Massimo Carminati, Mario Corsi e Bracci. Anche stavolta chiaramente ti chiedo come è partito tutto il progetto. Allora, il progetto è partito perché è partito parecchio tempo fa, insomma, lo spettacolo ha debuttato nel 2013, io l'ho scritto nel 2010, nel 2011 è stato premiato con la menzione speciale per Maritone, quindi insomma ha avuto una genesi abbastanza lunga prima di arrivare in scena. E anche nel pensare lo spettacolo, nel senso che io non conoscevo questa storia, quindi l'ho conosciuta, sono entrato in contatto con questa storia più o meno nel 2005-2006, quindi dal momento in cui ho cominciato a interessarmi a Fausto Iaio al momento in cui ne ho scritto è passato parecchio tempo e sono stato molto colpito da questa storia da subito. Devo dire che poi in realtà cioè è uno spettacolo che già parecchio, questa è una domanda che mi fanno, alla fine mi sono un po' abituato a rispondere, non sono abituato, ma forse ho avuto modo anche di rifletterci, perché essere colpito da questa vicenda da subito e capire anche perché ne sono stato colpito non è una cosa così immediata. E niente, io credo che mi abbia colpito una cosa in particolare, e cioè il fatto che la morte di Fausto Iaio fosse in qualche maniera una metafora dell'Italia, e anche per questo il titolo. Nel senso, un diciottenne potenzialmente può ancora essere tutto, cioè una fase della nostra vita in cui noi possiamo diventare qualsiasi cosa, possiamo diventare quello che sogniamo, poi possiamo diventare anche qualcosa che non abbiamo mai immaginato, no? Sì. Quando comincia a lavorare, se dura 5-10 anni, ovviamente è proprio la fase centrale dell'avere 18 anni, momento in cui loro potevano diventare qualsiasi cosa, morendo non sono diventati niente. E al tempo stesso l'Italia degli anni di piombo è un paese giovane, una repubblica giovane, come se fosse una repubblica adolescente, e avrebbe potuto diventare qualsiasi cosa, soprattutto perché quegli anni erano degli anni di fermento politico e sociale molto attivo in tutte le fasce della popolazione che in qualche maniera hanno cambiato la nostra società. Però poi in realtà la strategia della tensione ha evitato, cioè ha ridotto potenzialmente tutte le possibilità che questa giovane repubblica potuto percorrere. Quindi con Fausto Iaio una parte d'Italia è morta con gli anni di piombo. Roberto, ci hai parlato un po' del lungo e incompleto iter giudiziario. Tu, mettendo mano a tutta la documentazione, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea che viene fuori in qualche maniera dallo spettacolo, quindi se rispondo veramente in qualche maniera faccio un po' uno spoiler. Certo. Diciamo che mi sono fatto l'idea che la morte di Fausto Iaio, che è stata rivendicata da una banda di terrorismo di destra romano con una sigla molto vicina ai Narra, però non esattamente Narra, con Fausto che abitava via Montenevoso, quindi esattamente di fronte al capo delle DR che era attivo nel momento del rapimento Moro e di tutta la prigionia di Moro. L'idea che loro si siano in qualche modo, per caso e probabilmente inconsapevolmente trovati in qualcosa più grande di loro, e che l'eversione di destra sia stata utilizzata come storicamente in Italia è stata utilizzata tante altre volte. Roberto, che percorso ha fatto in questi anni lo spettacolo in Italia e che bilancio ne dai? Beh, il bilancio ultimo. Lo spettacolo è stato a Milano per in tutto 3 mesi in 3 stagioni, quindi ha fatto 2013, 2014 e quest'anno tutte e 3 le volte per 4 settimane, ma è sempre andato benissimo. È stato a Ilia nel 2014, sta tornando ora, e poi nell'inverno 13-14 è stato anche in altri teatri del nord Italia, principalmente Emilia Romagna, Lombardia, Veneto. Senti, c'è uno spazio internet dedicato? C'è una pagina Facebook che si chiama proprio Viva l'Italia, Massimo Trattino Cesar Bri, okay. È il regista dello spettacolo. Certo. No, non c'è una pagina con dominio di Viva l'Italia, ci sono delle pagine, okay, dei teatri che lo producono, okay, cioè, sia sulla pagina del teatro, cioè, sia sul sito del Teatro dell'Elfo, cioè una pagina dello spettacolo, che sul sito del Teatro di Roma. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento dal 15 al 20 maggio a Roma, al Teatro India, con Viva l'Italia, Le morti di Fausto e Iaio. L'autore è Roberto Scarpetti. Roberto, un abbraccio, è sempre un piacere e risentiamoci presto. Presto. Ciao. Ciao. Con noi Marco Zordan, uno degli organizzatori della 10ª edizione di Exit, Emergenze per Identità Teatrali, al Teatro Vascello a Roma dal 20 al 31 maggio. Marco, benvenuto. Oh, grazie Federico, grazie di ospitarci. 10ª edizione, per chi non conoscesse, cos'è Exit? Allora, Exit nasce appunto 10 anni fa ed è un... iniziavamo solamente in 4 compagnie e tutte quante appartenenti alla FITIT-ART, che è la Federazione Italiana Artisti, una federazione, diciamo, che ha come compito quello di portare avanti tutte quante quelle che sono le necessità, le istanze dello spettacolo dal vivo, sia teatro, musica, danza, e fino alle istituzioni, e favorendo comunque un dialogo con le istituzioni, con la politica, e anche fornendo vari servizi a chiunque ne faccia parte, con la presidenza di Gino Auriuso, che da 10 anni fa questo lavoro, diciamo, importantissimo, perché comunque dà modo a tutti quanti noi di avere una voce in capitolo, e tante battaglie sono state fatte dalla FITIT-ART, insomma, anche a livello comunale, regionale, con vari successi, e le compagnie, diciamo, facenti parte della FITIT-ART, 10 anni fa decisero, insomma, di andare in scena, insomma, di mettere in scena qualcosa. E tutto questo perché pensavamo che, unendo le forze, avremmo potuto accedere a teatri più importanti, a diciamo, dividere le nostre economie, dividere le spese, e tutto questo, diciamo, impulso organizzativo ci portò a iniziare Exit 10 anni fa. Ma nel frattempo questo è andato avanti, per 10 edizioni siamo stati al Vascello, siamo stati al Vascello adesso, siamo stati all'Orologio, siamo stati al Teatro 2, siamo stati al Furio Camillo, e fino a quest'anno, dove abbiamo trovato una casa eccellente, perché comunque, ecco, il Teatro Vascello ha sposato questo progetto e non soltanto ci ha dato il luogo fisico, ma comunque anche sposato la causa, aiutandoci anche sotto tantissimi punti di vista e proponendoci anche artisticamente degli artisti che ci saranno quest'anno nella rassegna, aiutandoci anche all'evento inaugurale che sarà appunto quello con Giulia Varley, il Nodo in Tiazet. Insomma, quindi una posizione molto, ecco, fattiva quella del Vascello, e noi, insomma, siamo molto, molto orgogliosi di, dopo 10 edizioni, di essere giunti, insomma, a un teatro così. Leggo di 8 compagnie per 2 settimane, come sarà strutturata? Allora, in 2 settimane noi partiamo il 20, domenica, perché sembra strano, ma partiamo il 20, una domenica, perché appunto avremo ospite Giulia Varley del Nodo in Tiazet, che è un evento unico, perché comunque lei in Italia non viene spesso, che farà una masterclass alle 16 sulla voce. E poi alle 21 andrà in scena con una sua dimostrazione di spettacolo, che è appunto questo sarà il 20. Dopodiché il 21 partiamo e partiamo con la inaugurazione alle 7, ci vediamo nel foyer del teatro per una piccola presentazione, un aperitivo, e poi la prima sera, il lunedì, perché poi sono anche un altro lunedì, il 28, le abbiamo dedicate a due concorsi che abbiamo lanciato e questi giorni, che sono Corti in Scena e Corti in Danza. Lunedì andrà in scena Corti in Scena, una serata di corti e monologhi con la prima azione finale, e invece il 28, che è l'altro lunedì, andrà in scena Corti in Danza, stessa formula, corti di danza, che al Teatro Vascello è la sua patria, e questo è il 28, sempre alle 21. Dopodiché avremo ogni sera alle 21 fino al 31 di maggio nove compagnie che si alterneranno sul palco, ogni sera uno spettacolo diverso, e abbiamo anche due compagnie ospiti che non fanno parte della Petit Art, ma che comunque il Teatro Vascello, spesso sono al Teatro Vascello che come spirito il teatro ha deciso di affiancare a questa iniziativa, che sono la compagnia di Ivan Bellavista, che forse tutti quanti magari conosceranno, perché certo, è diciamo la spalla di tutti quanti gli spettacoli di Antonio Rezza, con il suo spettacolo, e anche Nicola Piccitomini, che sarà invece il 29 di maggio. Poiché le altre compagnie della Petit Art sono Abrax Teatro, Teatraltro, Bricolage Dance Movement, La Platea, Walden, Ceres di Scena Madre e Schetta Holland. Queste sono le altre compagnie che ci saranno in scena. Okay. I giorni uno spettacolo diverso di drammaturgia contemporanea. Marco, ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Allora, sicuramente. Allora, su Facebook trovate tutto quanto, se invece sul sito www.exitteatro.it. Perfetto. Ricordiamo allora la decima edizione della rassegna Exit Emergenze per Identità Teatrali al Teatro Vascello a Roma dal 20 al 31 maggio. Un saluto e un ringraziamento a Marco Zordan, che è uno degli organizzatori. Marco, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, grazie. Ecco, noi Velia del collettivo LPA, lento però avanzo, per presentare lo spettacolo Celle di Controllo al Teatro Forte, al Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino, il 20 maggio prossimo. Velia, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Parliamo del collettivo, ce lo presenti? Sì, allora, il collettivo teatrale LPA, lento però avanzo, nasce nel febbraio 2017, lo scorso anno, nello spazio sociale di 100 celle aperte. È un collettivo politico e il teatro, insomma, è il linguaggio attraverso il quale traduciamo la nostra militanza, per cui abbiamo deciso di riunirci in modalità assembleare e di spiegare la verticalità della regia in contrapposizione a quella appunto orizzontale, per cui tutto viene deciso per consensi, appunto in modalità assembleare, e qualunque cosa, insomma, è decisa in questo modo. Anche il testo è collettivo, la scrittura, e qualunque tipo di decisione appunto viene effettuata in questo modo. Ok. Passiamo allo spettacolo, Celle di Controllo, intanto lo descriviamo? Certo, allora, Celle di Controllo è stato presentato lo scorso ottobre in forma di studio appunto a 100 celle aperte, e adesso al Forte Prenestino il 20 presentiamo un'evoluzione. Tutto parte da un tema che abbiamo deciso di sviscerare, che è quello del controllo appunto, che presentiamo in celle singole e indaghiamo il tema chiaramente in tutte le sue sfaccettature, per cui raccontiamo il controllo negli scontri di piazza, il controllo dei medicinali, l'autocontrollo, il controllo della famiglia, eccetera eccetera, insomma sono diversi, sono 13 celle che presentiamo dove sceriamo questo tema. Ok, da quale esigenza era nato questo lavoro? L'esigenza è nata appunto

interessanti. Ti direi che questa è la settimana in cui comincia anche un festival dedicato alla fisica di Gabriella Grayson allo spazio Diamante, dal 20 al 24 nello spazio di Via Prenestina. Si chiama Evviva la fisica, le menti che hanno creato il nostro mondo. È un progetto con un po' di spettacoli, dibattiti, incontri e racconti tutti incentrati sulla fisica, quindi i nostri amici fisici che sono all'ascolto potrebbero andare a dedicare un po' di attenzione a questo rapporto tra il teatro e l'arte e la scienza come uno strumento per un approccio innovativo rispetto alle tematiche dell'innovazione della ricerca scientifica. Ora, allo spazio Diamante, 24 di maggio, questa è la settimana in cui arriva a Roma anche la compagnia degli Scarti, ovvero sia Enrico Casale. La compagnia viene dalla Spezia, 17 e 18 maggio saranno al Faustbuch, saranno col Faustbuch, ovviamente è il titolo dello spettacolo, all'Angelo Mai. Questo è uno spettacolo che ha appunto a che vedere con il mito di Faust, è un tema di Faust, un'indagine intorno al tema del successo in un'epoca dove il talento è mercificato e la sua totale assenza viene spesso esaltata dall'audience mediatica come i moderni freak show. Questo Faust contemporaneo di Casale cerca di diventare l'uomo più famoso del mondo, ma c'è un problema, Federico, ossia che è un uomo mediocre e vendersi è l'unico modo che ha per riuscire a diventare qualcosa. Ora, però, il problema si allarga, perché vendersi a chi? Esiste ancora il diavolo? Se esiste, dov'è l'inferno? E questo è il problema che si trova davanti il nostro Faust contemporaneo. Regia e drammaturgia di Enrico Casale, della compagnia degli Scarti, 17 e 18 di maggio all'Angelo Mai con Faustbuch. Ancora andiamo avanti, perché alla Sala Umberto mi segnalano che arriva dal 15 al 27 maggio Le Ball, l'Italia balla dal 40 al 2001, una creazione del teatro di Campagnol, da un'idea nella regia di Jean-Claude Tenchenat, uno spettacolo che è di Giancarlo Pares, la coreografia di Ilaria Amaldi, ed è un lavoro che appunto ha a che vedere col ballo, in una creazione che attraversa la storia del ballo dal 40 al 2001, 15-27 maggio al Teatro Sala Umberto. Poi, allora, Teatro Vascello, ancora questa settimana debutta Manuela Kusterman, direttrice del teatro, con un'altra attrice che è Melania Giglio, per questo lavoro che si chiama Dichiaro guerra al tempo ed è tratto dai sonetti di William Shakespeare, ed è un lavoro che ha anche molta musica in scena. La regia è quella di Daniele Salvo e in scena saranno cantate assieme ai sonetti di William Shakespeare anche le musiche di Pink Floyd, David Bowie, Queen, Rolling Stones, Johnny Mitchell, Peter Gabriel, Cat Stevens, quindi insomma un po' di tutto in questo lavoro dedicato ai sonetti shakespeariani. Due donne giacciono sprofondate negli abissi del tempo, una in epoca elisabettiana, l'altra in epoca moderna, ma abitano la stessa stanza, e questo è ciò che in cui inizia questa stanza della memoria, dove appunto si incontreranno Shakespeare con queste nuove creazioni del mondo contemporaneo. Poi ti porto anche, sì, forse a vedere le ultime due cose che segnalerei in questa settimana: il ritorno al Teatro Argentina dello spettacolo ormai storico di Giorgio Strehler, scomparso nel 97, ma la cui regia è ancora visibile e portata nei nostri teatri, nei teatri di tutto il mondo. Si tratta dell'Arlecchino, Servitore di due padroni, ovvero sia il capolavoro goldoniano, che è lo spettacolo italiano più visto al mondo. Questa edizione ha una particolarità, ossia che il grande interprete Ferruccio Soleri, il grande Arlecchino, lascia la maschera, dopo averla ricevuta a sua volta nel 1959, la lascia al corpo di Enrico Bonavera, che quindi raccoglie questo testimone importante per la storia del teatro italiano e internazionale, e lo porta sul palco del Teatro Argentina dal 15 al 20 di maggio, ed è appunto un omaggio alla grande regia italiana, a Giorgio Strehler, scomparso nel 1997, che ancora oggi continua ad essere un grande riferimento per i giovani e meno giovani registi del nostro contemporaneo. Quindi il 15-20 maggio per andare a vedere l'Arlecchino Servitore dei Due Padroni. Ultimo appuntamento di cui ti faccio menzione, Federico, riguardo sempre il teatro di Roma, ma il teatro India in particolare, per l'ultimo appuntamento di Flux, che è il festival dedicato al teatro lituano, proprio con una collaborazione con il teatro della città di Vilnius e l'Istituto Lituano di Cultura. Si tratta di un lavoro che ha per titolo Trans, ed è in replica secca alle ore 18 al Teatro India, con la regia dell'artista Camille Goodmonaité, una ragazza del 1992 che firma un atto unico sull'identità sessuale. È un lavoro dedicato al tema della donna, un lavoro corale e autobiografico, concepito da donne per riflettere su cosa vuol dire essere donna, indagando la femminilità e la sessualità, allontanandosi dagli stereotipi comuni per rivendicare la libertà di essere davvero se stessi. Questa riflessione sull'identità di genere l'andremo a vedere alle ore 18 per Flux, Festival Lituano delle Arti, al Teatro India di Roma, martedì 15, che poi è domani, e quindi dobbiamo andarci anche in fretta. Federico, questo direi che è proprio tutto. Grazie Simone, un abbraccio e alla prossima. Ciao a tutti. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.